a Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Giaguaro Maria, Giaguaro Maria. Sexy, sexy, sexy. Giaguaro. Con la mossa del Giaguaro. Tutti sciogli piano piano. Credo che tutti debbano riflettere su cosa si può fare di utile per l'Italia, e la riflessione prenderà qualche tempo. Se pizzica, se muzzica, allora sì che è fantastica, niente plastico, labbra al silicone. Ecco, lei ci stava dicendo che è un po' presto per decidere che cosa fare. Sì, sì, bisogna riflettere per il bene dell'Italia. Tutti devono così acconciarsi a fare qualche sacrificio, ma credo che insomma quest'Italia non possa non essere governata, quindi bisogna vedere su quali programmi si potrà convenire da parte delle varie forze politiche, insomma, e da qui si comincia. Molti parlano come se non fosse accaduto nulla, con il solito politichese, i punti di convergenza, aspettiamo. C'è stata una conferenza stampa di Bersani in cui a un certo punto Bersani ha detto: non voglio parlare per enigmi, e non si era capito nulla tranne una timida apertura al Movimento 5 Stelle. Bersani e gli enigmi. Io non accetto più di parlare per enigmi, ciascuno si prende le sue responsabilità. Non so la PDL, non so Movimento 5 Stelle, fin qui hanno detto tutti a casa, adesso ci sono anche loro, o vanno a casa anche loro o dicono che cosa vogliono fare. Poi adesso c'è questa metafora che Bersani non abbandona la nave, che tiene la barra dritta. Io non sono uno che abbandona la nave, posso starci da capitano o da mozzo, ma non abbandono la nave. Giovane ribelle, coi tatuaggi incisi sulla pelle, a belle, il giaguaro è nei paraggi, assaggio, non assaggi. Nel pomeriggio il responsabile economico del Partito Democratico Fassina dice che bisogna affrontare l'emergenza e tornare subito al voto. Cercando di affrontare le emergenze morali e le emergenze economiche prima di tornare a votare. È chiaro che non c'è un quadro che consenta un governo di legislatura, questo mi sembra evidente. Bisogna fare in modo che appunto ci sia sostegno al governo Bersani per affrontare queste emergenze in un lasso di tempo ragionevole e poi tornare al voto. Tutte frasi generiche, caro Parenzo, qui non si è capito nulla, bisogna andare in Parlamento con poche cose. Allora guarda, tagliare il numero dei parlamentari, eliminare il finanziamento pubblico. No, scusami, prima di entrare nel merito di tutte queste questioni avremo modo di discutere, ti dico subito che Bersani ha fatto un grande discorso e poi gli spiegherò perché. Sei alla militanza pura ormai. No, perché ha detto una cosa di responsabilità. Sei alla militanza pura, ha detto al Movimento 5 Stelle, stai zitto, ora parlo io. Ha detto al Movimento 5 Stelle, ha detto: ora ci siete anche voi lì dentro, dovete decidere, pure se va tutti a fanculo, però dovete decidere. Però io sono qui con un fioraio marocchino che è il cugino del babbaro dell'altra volta, che è il cugino. Vuole fare un'analisi brevissima del voto, perché poi va via il fioraio, te lo passo un secondo. Pronti? Sì, buonasera. Buonasera. Lei ha votato in Italia? No, non ho votato, io e due Scerasoli, due Rossi. No, no, non voglio nulla io, no, non voglio nulla. Speranzati. No, non voglio. Suocera. No, no, no, no, no, ma non voglio fiori, li vende a Parenzo i fiori, lui è fidanzato, io no. Parenzo compra molte fiori. Lo so che compra molti fiori, sì, lo so. Mazzo, Rossi, Rossi. Ma lei è contento di queste elezioni che, da cui non si è capito nulla, da cui non esce un governo chiaro? È contento di situazione italiana oppure no? Non gliene frega niente? Mm, non capito molti le lezioni. Barenzo spiegato un poco, ma non tanto bene. Forse Gosciani meglio. Non lo so, ma io non sono così intelligente come Barenzo, ha capito? Però posso dire una cosa di Barenzo. Barenzo ha il cuore di un bambino. Ah, cuore di ha un bambino, cuore dice di un lei, bambino. Come un bambino. Ho capito. Non sono Giaguaro, sono Lazzi. Io non lavoro un manco se m'ammazzi. Viva la Bernarda, chi tocca e chi guarda. Scalda quel gran pezzo dell'Ubalda. Bamba, disco samba, un po' di rumba. Arrivar Giaguaro, un urlo nella giungla. Muovi la mano, giovannona, coscia lunga. Piedi più fianchi e palla questa rumba. Come Ramba, stile pornografico. Mascio piotta, muscio decamerotico. Entro, esco. Arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! Pacco contro Pacotto, occhio malocchio, prezzemolo nel finocchio! In un'intervista Massimo Cacciari dice che al PD sono delle teste di cazzo e che era meglio candidare Renzi. In realtà lui prima delle elezioni non è che fosse un grande tifoso di Renzi, eh? Ecco, diciamola tutta, pure il professor Cacciari ogni tanto, no? Sallusti legge i possibili titoli del giornale, senti da Vespa. Allora il titolo, almeno di questa prima edizione, è Miracolo Berlusconi. Metti un favore di camera così lo vediamo anche noi. Miracolo Berlusconi, il centrodestra ferma la sinistra, Grillo vola e smacchia Bersani, gli italiani arrestano in groia di Pietro, giustizialisti fuori dal Parlamento, Monti tramvata tecnica. E a noi piace sempre questo dire e non dire. Queste allusioni. E non se ne andavo più via. Il top è sempre Roberto D'Agostino. Senti, perché si parla di un governo di salute pubblica con Giuliano Amato, cosa che ovviamente non si farà. No. Mai dire mai. Giuliano Amato. A parte salute pubblica, ma Giuliano Amato. Giuliano Amato. Un governo di salute pubblica con un premier, vi faccio un nome, Giuliano Amato. No. No, io faccio un premier, ho la mia ipotesi. Faranno un governo di salute pubblica con, anche qui, a differenza di un tecnico come Monti, ci sarà un Giuliano Amato, per andare avanti fino a cambiare una legge elettorale che è folle, che è una porcata. Dopo questa legge elettorale ci ritornerà al voto, ma non prima di un anno e mezzo. Quindi adesso ci sarà un governo con... Senti come D'Agostino piglia per il culo Bersani, sulle parole usate durante la campagna elettorale, appunto il giaguaro, smacchiare, eccetera, eccetera. Per questioni di leaderismo, uno come Renzi, nel bene e nel male, io non so, manco, però una faccia nuova, sangue nuovo, un prodotto nuovo che entra in circolazione, quello doveva portare tutti a un cambiamento. Invece arriva quello che vuole smacchiare il giaguaro, che mette un tacchino sopra il tetto. Ma da che stai a dire? Ha perso la faccia, io voglio. A proposito di apertura di Bersani a Grillo, ma vogliamo sentire quello che Grillo diceva di Bersani fino a qualche ora fa, quello che dice ancora di Bersani in realtà, perché forse è Bersani che ha dato una volta pure del fascista Grillo che ha cambiato idea adesso perché gli servono i voti del 5 Stelle al Senato, dei grillini al Senato. Aspetta, stai calmo, stai tranquillo, militante del PD, stai ma tranquillo. Quale militante? Sei il portavoce, sei il futuro ministro per i rapporti con il Parlamento del Movimento 5 Stelle, so che ti ha chiamato già Grillo e ora prende la parola l'onorevole Cruciani. No, veramente, veramente onorevole, ministro, no. Per i rapporti con il Parlamento, sei diventato Radio Casaleggio e ora farai il portavoce di questo governo di fascisti che vogliono mandare tutti a casa. Ma come si permette? Stai tranquillo un attimo, senti quello diceva Grillo di Bersani. Lui è figlio di un meccanico e io ho lavorato e ho guadagnato i soldi col mio lavoro, non da parassita come lui. Parassita e via, vogliono fare il governo insieme, i punti programmatici insieme, ma di qua cosa stiamo parlando? Un'altra cosa. Abbiamo manifesti di 3x4 con Gargamella del PD, che che poverino, l'Italia guasta. L'Italia è lì messo un po' pensoso, un'espressione triste, anche i colori che sono stati scelti per Gargamella, un po' grigio, sembra una fettina riscaldata di un microonde, il colore. Ma tu lo sai, Parenzo, che a Latina, cioè nel Lazio, Grillo ha portato in Parlamento la madre e un figlio. c'è la madre e il figlio, un'infermiera, senatrice, e un figlio alla Camera. Vabbè, grazie anche a te, diciamo. No, veramente io ho votato in Lombardia, non ho votato nel Lazio. Non c'entra, complessivamente grazie anche a te. Ma non me ne può fregare di meno, di chi entra in Parlamento. Gli ascoltatori della Zanzara devono ringraziare te se ora c'è il caos. Ma ora sarete voi, perché io da oggi in poi, per me tu sei uno di loro, quindi io dirò voi quando mi rivolgerò al Movimento 5 Stelle. Ora sarete voi, che come ha detto giustamente Bersani su questo, poi sorretto ha sbagliato, adesso scoprite le carte, dite che cosa volete fare. Nulla. Perché ora non c'è nulla, da mandare a fare in culo, perché dentro quella stanza dei bottoni ci siete anche voi. Nulla, togliere il finanziamento pubblico dei partiti, togliere il finanziamento pubblico dei partiti subito. Lo fare, subito, no? Sì, lo propongano. Ma che ha detto? Nulla ha detto, non ha detto nulla. La moralità pubblica, il 15 marzo, cose generiche. Andrai anche tu lì, no? Il 15 marzo, dentro la Camera, metteranno piede lì dentro. Un'altra cosa ridicola, fuori. Aspetta un attimo, un'altra cosa ridicola è dire senza quella avremmo vinto, senza quella avremmo perso, per esempio Berlusconi su Giannino, sentite. Bastava Giannino che noi avremmo vinto la maggioranza alla Camera, insomma. E questi signori che si sono dichiarati sempre dei liberali. Questo potrebbe valere anche per Bersani, che ha candidato il Centro Democratico e senza quello non avrebbe vinto, avrebbe perso. Questo vale per tutti, non è che si possono mettere tutti dentro. Già ci sono troppe incongruenze all'interno delle coalizioni. Non vale questo discorso, non vale. Non è molesto moschito, why don't you go on? Grillo paventa che ci sarà qualche scilipote. Innanzitutto vuole parlare lui con Napolitano. Senti qua, Grillo, Napolitano parlerà con me o con Casaleggio. Ma te lo immagini un incontro tra Grillo e Napolitano? Renzo? Certo che lo immagino. Lui arriva con il camper. Col camper lì arriva, dove si può parcheggiare. Via i corazzieri, non servono a un cazzo, non serve a nulla questo Quirinale che costa più di Buckingham Palace. Via tutto. Dov'è Napolitano? Dov'è Morfeo? Dov'è Morfeo lì con il pannolone? Che diceva sempre con il pannolone. Arriva lì da Napolitano e dice: dov'è Giorgio Napolitano? Io sono Beppe Grillo con il camper. Cazzo, porca puttana, vaffanculo Napolitano, vaffanculo tutto. Solo qui al Quirinale basta mettere un iPad. Non serve Napolitano, non serve la bandiera, tutto quel palazzo inutile, basta un iPad. Con l'iPad fai le consultazioni, con l'iPad fai tutto e basta ancora. Ma la cosa paradossale è Ambrosoli in Lombardia, abbiamo molte ragioni per essere contenti, ma qui c'è un ribaltamento totale. Ma come? Non è fermo al 37%? Adesso voglio dire, ancora 38. Siamo all'inizio, però tutte le proiezioni danno Maroni vincente. Va bene, andiamo anche lì bisogna ringraziare i 5 Stelle, perché quel 12% della signora Carcano. Certo, infatti, ma proprio non capisci nulla. Arturo da Roma, 800 24 00 24. Tu ormai ti sei ma io non diventato. Faccio nulla, guardi, non sono hai mai messo stato la parrucca? Non sono mai stato militante in vita mia, non sono mai stato, al contrario di te, non sono mai stato militante in vita mia. Ma io Arturo da Roma, buonasera. Bersani ha detto una cosa giusta, giustissimo. Ha detto ai grillini: diteci che cosa volete fare. Arturo da Roma, eccomi. Io in realtà tagliassero tutto il finanziamento pubblico alla politica, tutto dal primo all'ultimo euro, tutto via il finanziamento pubblico. Peraltro lo stesso Renzi lo dice: togliere il finanziamento pubblico alla politica, tutto dalla primo all'ultimo euro, tutto via. E voglio capire come campa pure il Partito Democratico. Arturo da Roma. Eccomi. Vada. Allora, io in realtà vi cercavo ieri perché nell'eccitazione volevo un po' esprimere alcuni sentimenti verso il PD, che poi ho letto oggi sul Fatto da parte di Cacciari. Insomma, il titolo del Fatto lo diceva, era il mio pensiero. Sono delle, come ha detto Cacciari, come avete detto poco fa voi. E quindi oggi in realtà il mio animo è diverso, mi sento più che altro asfaltato di quella, come ha detto il buongiornino, da questa situazione e da questa grave mancanza di realtà che ha avuto la classe dirigente nel PD qualche mese fa, a non capire che doveva fare un passo indietro, dare il partito a Renzi, lasciar vincere le primarie, cedergli direttamente il partito e poi governare 5 anni probabilmente insieme a tante altre forze. Sì, però i discorsi col se e col ma, anche secondo me sarebbe andata così, però adesso sono inutili. Cosa vuol dire? PD vada a candidare Renzi. Ho capito, hanno voluto fare quel tipo di primarie, hanno deciso questo, punto e basta, capo. Cioè, non è che uno può recriminare sul passato. Cioè, anch'io sento tanta gente che ha votato a destra che in realtà avrebbe votato Renzi. Magari avrebbe perso qualcosa a sinistra, ma sono discorsi inutili. Mario da Roma, buonasera. Mario? Fabio da Firenze. Sì, vada. È un altro discorso inutile allora. No, no, no, vada, no, vada, se, lo dica pure, è inutile, se però cliccate, dire, se, per, no, è la clicca, cosa di cui parla un sacco di gente, però... Però se cliccate su YouTube, no, sì, Renzi sì. President, c'è una mia telefonata un Giannino a settembre, facile profeta, vero, no? Diciamo, si dimostra che i dirigenti del PD sono coglionazzi, perché Berlusconi un Renzi non se lo faceva scappare, diciamo la verità, dai. È come mettere Maradona in panchina nei tempi d'oro, hanno voluto far così, lo sapeva anche il gatto, loro no, si va avanti e ora ci si ritrova il paese allo sbando, diciamo la verità, non si sa che fine si farà. A questo punto siamo con un debito di 34.000 euro a testa, ricordiamo a tutti, 34.000 euro a testa. Fate voi. Sì, ho capito, non è che c'è uno che, con la bacchetta magica però, non è che arrivava Renzi e risolveva tutto, probabilmente il PD avrebbe, non lo so, cioè, molti dicono avrebbe vinto, però non è che arrivava lì e scompare il debito italiano e scompaiono i problemi italiani. Stabilità però, stabilità. Sì, sennò... sì, insomma, è tutto da vedere, cioè, molti dicono che Berlusconi sarebbe sceso in campo lo stesso, che avrebbe fatto comunque una battaglia per le sue cose, eccetera, eccetera, bisogna vedere. Diego da Catania, buonasera. Buonasera signori. Dica. Dico che sto cercando ancora qualche dichiarazione del grandissimo Re Giorgio, l'unico responsabile della situazione governativa o non governativa attuale. In che senso? Perché... guardi che non fa dichiarazioni il Presidente della Repubblica così, cioè ogni tanto le fa effettivamente. E invece stamattina avrebbe dovuto dichiarare che si dimetteva, visto che a causa sua... Chi si dimetteva se sta per scadere il mandato? Ma che dice? Ma cosa dice? Se ci avesse mandato a votare... L'anno scorso, quando Berlusconi era al 10% e il PD al 40%, non si sarebbe verificata questa situazione, perché gli italiani dimentichiamo, ma se avessimo votato a ottobre dell'anno scorso, giusto, il PD era al 40%, Berlusconi era sparito, scomparso. Se adesso Berlusconi è riuscito a recuperare è grazie al fatto che in un anno e mezzo, grazie al potere che ha, televisioni, bunga bunga e battute, eccetera, eccetera, e giornalisti vari... Che sembra che tifano tutti quanti per loro, nonostante quel che... Per loro chi? Dicono. Per loro chi? Per lui, per il PDL, per Berlusconi. Ma veramente che tutti i giornalisti tifino per il PDL è una sua idea, cioè... Ma no, totalmente tifano, fuori dalla realtà, non insomma. Non tifano tutti. Al limite PDL, il contrario, insomma. Ma il signor Bersani che ancora si mette lì a smacchiare i giaguari... Ma non è credibile, cioè come fanno a non prendersela con la politica? Vabbè, lei dice un anno fa sarebbe stato diverso, anche qui, ma ormai stiamo parlando del nulla, cosa sarebbe accaduto se fossimo andati a votare subito invece di... Certo, si può fare pure questo discorso. Ma insomma, oggi ancora Bersani, io non ho sentito una parola di autocritica nella conferenza stampa di Bersani, nemmeno una. Ma come no? No, non c'è stata una parola di autocritica, non c'è stata mezza parola di autocritica, abbiamo sbagliato. No, non c'è stato nulla. Enrico da Torino, me l'hai sentita solo tu l'autocritica? Io ho sentito... Che cosa? Qual è l'autocritica? Cerca di spiegala agli ascoltatori, qual è l'autocritica? Dice, non abbiamo saputo intercettare e capire cosa? La pancia vera del paese. Ma dove l'ha detto? Dove? Leggi, ma cosa ha detto Enrico da Torino? Dopodiché ha detto semplicemente una cosa, che comunque loro... Senti, se ti piace o meno, è il primo partito. Ma sì, e allora, il primo partito è 5 Stelle, innanzitutto. Niente. No. Al Senato chi è il primo partito? Il primo partito è il Movimento 5 Stelle. Il primo partito, vabbè, Enrico da Torino, buonasera, fammi sentire gli ascoltatori che è meglio, tu sei militante del PD. Enrico da Torino, dai. Pronto? Sì, dica. Intanto Dario Fo ha declinato l'offerta. Ho detto che Bersani ha detto che il Movimento 5 Stelle deve dire che cosa vuole fare. Sì, ma Bersani sì. È stato elementare, sa leggere, perché non ha capito veramente un cazzo. Il Movimento 5 Stelle dall'inizio che dice chiaramente che cosa vuole fare. Le 5 Stelle corrispondono a 5 punti. Il PD è interessato a realizzare qualcuno di questi punti. Ma quali sarebbero questi 5 punti? Se faccio una proposta il Movimento 5 Stelle l'appoggerà. Punto. Come dice lei... Tutti i partiti devono presentare liste pulite, due legislature e a casa, i rimborsi elettorali finiti, la scuola deve rimanere pubblica, gli ospedali devono rimanere pubblici, cioè, la scuola pubblica, l'acqua deve rimanere pubblica. Scusi un attimo, questi sono punti di programma. Enrico, Enrico, non mi pronunci questi punti del programma, sennò mi vengono i brividi, perché lei mi dice la scuola deve rimanere pubblica, la scuola è in gran parte pubblica in Italia, cioè non è che non sia pubblica la scuola in Italia. Sia tranquillo. Che ogni scuola adesso fa pagare a tutte le famiglie, vabbè, di tutti i ragazzi che vanno a scuola 300, 250, 350 euro a vabbè, testa. Enrico, Enrico, guardi, il punto fondamentale è che bisogna avere la fiducia alla Camera e al Senato. Io dubito moltissimo che al Senato un governo Bersani possa prendere la fiducia di Beppe Grillo o del Movimento 5 Stelle. La ritengo una cosa quasi impossibile. Se Grillo lo facesse sarebbe un suicidio totale rispetto a quello che ha fatto negli ultimi anni. È una zanzara tigre dentro il mio giardino. finisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria nel letto che mi graffia tutto. Cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi. Ma che mondo è questo? Bersani e l'offerta al 5 Stelle, addirittura la presidenza della Camera. Noi siamo, lo dicevo già anche in campagna elettorale, noi siamo favorevoli a una corresponsabilità sul livello istituzionale. Fra l'altro il Movimento 5 Stelle, seppur di non molto, è il primo partito, no? Alla Camera. Benissimo. Allora qui bisogna che, secondo quello che avviene, secondo i grandi modelli, diciamo, democratici, ciascuno si prende la sua responsabilità. Se ti guardo meglio, ma che mondo è questo? Senti la concia che è rimasta fuori. Ho fatto 6.000 chilometri per far dimenticare Marini, che non è stato eletto in Abruzzo. La concia molto arrabbiata. Per esempio, nel mio caso, che è un caso abbastanza emblematico, ecco perché... io ho passato tutta, bisogna dirlo, e gli abruzzesi lo sanno, i miei concittadini marsicani lo sanno, io ho passato, ho fatto 6.000 chilometri guidando io la macchina, senza autista, girando come una Madonna pellegrina per far dimenticare Marini, perché era davanti a me. Adesso per far dimenticare Marini, non esageriamo, dai. Franco Marini. Ma vogliamo sentire Grillo, Napolitano parlerà con me o con Casaleggio? Intanto Di Pietro si è dimesso da presidente dell'Italia dei Valori, Italia dei Valori che praticamente non esiste più, per cui da che si è dimesso? Ma comunque, a che titolo, scusami, Casaleggio va a parlare con... Ma guarda che ci può andare chiunque, il Movimento 5 Stelle può mandare anche... Ma può mandare anche te, infatti, io certo. Non mi stupisco di vederti al Quirinale. No, infatti. Ma qual è il problema? Qual è il problema? Non mi stupisco che gli vai lì e Napolitano dice: lei è... Sono Cruciani, aia, zanzara, party, tutti a casa. Senti Grillo, così, ma va benissimo. Senti Grillo. Ma manda tutto in vacca, ma va bene. Senti Grillo, invece di fare lo studio. Dovete governare ora, sì. Voi dovete governare. Ma non faccio il cretino, faccio il cretino. Beh, intanto lei ha poco da parlare, amica mia, ha molto poco da parlare, visto che hanno trovato il busto di suo marito nel camper di Beppe Grillo. Senta, quando va a Roma a salutarvi? Io non lo so, io vado solo a salutare il nostro amico. Quindi va per le consultazioni? No, vado a salutare lì perché dovremo andare, la legge dice che deve parlare e quindi parlerà con me o Casaleggio. Ma in che cosa sei riuscito a trasformare? Io metto in conto qualche eletto che si vende. Lo metti in conto che qualcuno di loro si potrebbe vendere, Beppe, dei tuoi? Lo mettiamo 5. Ce l'ha qualche sospetto? Io ce l'ha qualche sospetto? Sia difficile. Già. No. Ma è la miseria. Una scilipotizzazione ci potrebbe essere. Allora, quelli del centro-sinistra così trattavano Grillo prima, bisogna dirlo, Quelli del centro-sinistra trattavano Grillo in questo modo. Io figlio di un meccanico, Grillo miliardario, adesso aprono. Ma aprono per forza. Adesso, ma intanto facciamo sentire, facciamo ricordare. Facciamo ricordare. Ricordiamo. Facciamo ricordare. Ma è ancora una democrazia parlamentare. Ma stai tranquillo, stai calmo, stai tranquillo, è la radio questa qua. Facciamo ricordare, no? Parole in questo caso. Audio canta. Ricordiamo quello che diceva Bersani su Grillo, figlio di un meccanico, Grillo miliardario. Fammi sentire, fai ascoltare. Io sono qua, sono in mezzo alla gente, giro per strada, ok? Ieri sera ero in birreria a parlare con dei ragazzi che vogliono votare Grillo e gli ho chiesto: quando l'avete visto voi Grillo qui in giro? Va bene? Ok. Quindi a me mi insulto, sono figlio di un meccanico io, so cosa vuol dire, non sono un miliardario. Prendiamoci bene. Porta il paese fuori dalla democrazia. E di te non ha bisogno. Io ce l'ho con Grillo, perché quando tu porti fuori strada questa protesta, quando tu dici non c'è più né destra né sinistra, quando ti rifiuti a rispondere una sola domanda e vuoi parlare soltanto tu, quando vuoi comandare dal tabernacolo della rete, ma tu porti fuori il paese dalla democrazia. Vai avanti tu che io rimango. Ma come si prepara bene questo accordo, che non ci sarà ovviamente, come si prepara bene, fascista, fuori dalla democrazia, l'altro che diceva parassita, Gargamella, e adesso Bersani apre, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Elezioni regionali, secondo le proiezioni in Lombardia il centrodestra con Maroni è in vantaggio sul candidato di centrosinistra Ambrosoli. Nel Lazio Zingaretti distacca il candidato di centrodestra Storace, nel Molise si profila una vittoria netta del centrosinistra con Frattura. Bersani, siamo primi ma non abbiamo vinto, proporremo un programma di misure essenziali, Grillo dica cosa vuole fare, io non abbandono la nave. Berlusconi, serve una riflessione di tutti per garantire governabilità, no al ritorno al voto, i montiani servono riforme, no ad un governo a tutti i costi. Grillo, andrò io da Napolitano, se provano a fare il governissimo li fermeremo, non ci allieiamo con nessuno, in Parlamento valuteremo legge per legge. L'esito del voto allarma i mercati, affonda la borsa, vola lo spread, vertice Monti, Grilli, Visco, Berlino preoccupata, Bruxelles fiducia nell'Italia. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Alessandro da Roma, 800 24 00 24. Alessandro, buonasera. Sì, buonasera signor Cruciani. Dica. Salve, no, io poi le dirò chi ha trafugato il busto di Almirante. Non so, so chi ha trafugato il busto di Almirante. Lo sa per certo? Lo so per certo. Però, un attimo solo, un attimo solo. Pronta? Senatrice Fucsia? Sì? Sono Cruciani da Radio 24, La Zanzara, complimenti per l'elezione, volevo complimentarmi. Grazie, grazie. Parenzo, senta, le posso fare qualche domanda veloce, giusto così per, sì, per capire alcune pure cose? Senta, lei è stata eletta nelle Marche, giusto? Sì. Era l'unica eletta nelle Marche, lei? No, no, no, no, assolutamente no, siamo tre donne, io, Donatella Agostinelli, Patrizia, sì, Terzoni. Ma tutte da 5 Stelle? Tutte 5 stelle, poi di donne ce ne sono di più. No, certo, no, pensavo, non so, avevo letto da qualche parte che invece avete letto. No, io sono al Senato, però alla Camera abbiamo ecco, altre due attiviste Movimento 5 Stelle. Quindi. Lei comunque era la capolista al Senato del 5 Stelle, sì, giusto? Sì, c'era stata quella polemica sull'aborto, lei aveva detto la legge sull'aborto è una sconfitta per tutte le donne. Allora, no? Quella è stata, io non avevo detto assolutamente quello. L'aveva scritto è addirittura, stata o no? Una cosa capita male, lasciata peggio, strumentalizzata e senza frutto poi, perché la strumentalizzazione non ha, anzi, indirettamente mi ha fatto della pubblicità, propaganda elettorale gratuita. Vabbè, non avevate bisogno. Senta, non una cosa, ho detto quello, il senso era tutt'altro, poi dopo vabbè, ma lasciamo perdere, sono polemiche. Polemiche preelettorali, diciamo, sì, polemiche. Ma poi è stato tutto abbastanza chiarito, sì, credo, spero. Senta, ciao Fucsi, io volevo capire una cosa, ma lei va al Senato, che lei sa benissimo che il Senato sarà decisivo, no? Oggi nel pomeriggio c'è stata un'apertura di Bersani, ma voi, cioè lei per esempio, lo voterebbe mai la fiducia a un governo Bersani? Metta che proponga, che ne so, molte cose su cui voi siete d'accordo, no? Quello che ha detto oggi. Quello che ha detto. Allora, a scatola chiusa assolutamente no, nulla. I singoli... Un programma preciso, un punto di programma, sì, che magari condiviso dal Movimento 5 Stelle, ben strutturato, sì, e definito, se corrisponde a quello che vogliamo noi, perché no? Ma senatrice, questo lo, cioè insomma, se concordiamo sui programmi, votiamo poi i programmi di tutti, cioè nel senso precisi, ma sì, non delle intese così generiche a scatola chiusa. Cioè una fiducia a un governo, cioè lei sa che ci sono dei passaggi. A priori no. No, se si presenta al Senato a chiedere la fiducia. No, noi abbiamo sempre detto che restiamo abbiamo un programma. Cioè la fiducia non gliela date comunque. No, noi facciamo un discorso di programma, rimaniamo coerenti con quelli. Se ci sono delle convergenze di programma, lavoriamo su quelle. Altrimenti su cosa diamo la fiducia? Beh, lei lo sa che a differenza della regione Sicilia, per esempio, dove ci sono molti eletti del 5 Stelle, al Senato, comunque al Parlamento funziona in modo diverso. Bisogna fare dei passaggi, andare a chiedere la fiducia, eccetera, eccetera. Cioè, lei ha un governo Bersani che ha 3 punti, magari su questi 3 punti siete d'accordo? Voterebbe sì la fiducia? Sono d'accordo, su un punto sono d'accordo, sì, se su 3 punti sono d'accordo, sì. Cioè, per punti, adesso vedremo come come si struttura la cosa. Oggi Dario Fo ha detto una cosa, ha detto invito Grillo a trovare un accordo col PD, cioè lei è più di sinistra, diciamo la verità, parere. È più vicina al PD che... Io sono, mi riconosco nel programma Movimento 5 Stelle, sì, che è al di fuori di ogni ideologia, è un programma concreto, sì, concreto, ben, sì, strutturato, delineato, da rivedere, magari si possono rivedere, sì, dei punti, certo, correggere meglio il tiro, però io mi rivedo in quello, Beh, altrimenti mi sarei presentata con un altro partito, no? Però le alleanze si possono fare sì o no in generale, secondo lei? Noi non siamo per le alleanze, però io penso che alla fine convenga a tutti per il bene del paese, sì, essere costruttivi e cercare insomma di portare qualcosa a casa, tra virgolette. Ah, ok, ho capito. Perché siamo lì per governare, certo, non per sfasciare, per perdere tempo o per... Cioè non si deve tornare subito al voto, dice lei? Ma io direi che sarebbe una doppia presa in giro e anche... Ma nessuno penso possa avere interesse a fare una cosa del genere. Cioè passare al voto significherebbe annientare completamente i partiti, perché a quel punto prenderemo noi il 100%. Beh, penso. Però scusi, questo potrebbe essere l'obiettivo di Grillo, è stato sempre quello di far saltare i partiti. Invece lei dice di no. No, io dico... Se andiamo al governo ci deve essere un rispetto anche per l'elettorato, no? Quindi io direi provare a costruire con quello che abbiamo. Ok, ho capito. Senta, le piace, senatrice? Potremmo fare l'ago della bilancia in questa situazione. Le piace questo ruolo un po' al Senato di fare ago della bilancia, eh? Le piace? Sento. Senta, senatrice, ma a lei le piace essere chiamato senatrice oppure no? No. No, noi ci chiamiamo... No, neutrale la cosa, cioè noi ci chiamiamo, no? Siamo senatrici, senatori, portavoce. Senatore, allora come la devo chiamare? Signora Fucsia, come la devo chiamare? Senatrice portavoce. Senatrice portavoce. Allora, no. Senatrice portavoce. Cioè non onorevole? No, non mi chiami onorevole, che poi è troppo impegnativo, e poi insomma essere onorevoli non è che poi uno si fa un'idea tanto positiva ultimamente, no? Ah, quello sicuro, però adesso siete dentro anche voi, adesso la richiamo che Parenzo le deve fare due domande, un attimo solo, Che stava dicendo Alessandro? Stavo dicendo, tanto volevo dire che ho votato Berlusconi alla faccia di tutti quelli che lo odiano, no? Compreso Parenzo, no? Compreso, Parenzo è quel bisessuale lì mini dotato, privo di contenuti. No, stia calmo, scusa. No, vabbè, ma bisessuale, ma aspetta, allora, Parenzo, David, ma cosa vuoi? Voglio dire, poveretto, siccome questo momento di trasmissione si chiama La parola all'idiota. È evidente. Le do che... una notizia bomba. Allora, il busto di Almirante, sì, è stato trafugato dal signor Parenzo. Le spiego perché, sì, c'è un motivo. Lui ha fatto aggiungere da un noto scultore qua romano, ha fatto aggiungere, sì, la zona pubica comprensiva di organi genitali. Non si preoccupi, vada avanti, ancora 40 e la sera lui praticamente la sera quando torna si fa, come si dice a Roma, ingroppare dal busto di Almirante. Stia tranquillo. Ma lei è un poveraccio, No, ma io conosco una persona che è andata, che ha avuto rapporti bisessuali, sì, con il signor Parenzo. Ma guardi che non c'è nulla di strano. Perché secondo lei... Perché non fa outing? Perché pensa che chi ha rapporti... No, fallo parlare. Ma io non ho problemi, però perché non fa un pochino di outing? Ma perché su non che cosa? A parte che si dice coming out, non outing. Vabbè, coming out. Sì, caro Alessandro. Però che la telefonata dell'idiota, in genere, tra le 20 e le 20 e ma Parenzo, sa perché ascolto questa trasmissione, signor Cruciani? Sì. Tutte le sere l'ascolto, sì, perché? Sì. Perché spero che gli prenda il coccolone in diretta. Adesso come succede con i poveracci di calciatori? E infatti, mentre non mi viene il coccolone, quei poveracci di calciatori, no? E io con gran gioia, poveracci che muoiono in diretta, no? Io tutte le sere ascolto questa trasmissione sperando, sì, che Parenzo non crede in diretta, e invece non solo non mi viene il coccolone, ma io guadagno pure ascoltando le sue guardi, stronzate. Cicerone 2000 anni fa diceva, ma non Cicerone, poverino, ma lei è sconnesso. Cicerone diceva, stolto è colui che crede che arriverà a sera, quindi nessuno è sicuro di vivere, no? Quindi lei non può essere non dà per scontato, Parenzo, che non ti viene il coccolone. Ti può venire il coccolone, io sto ma qua. Ma a tutti può venire, anche a lei, anche a lei. Certo, pure a me, pure a me. Beh, lei io si è appena qua. Ripreso. Lei si è appena ripreso io con danni irreversibili al cervello, come è evidente. Sul mazzolo, come l'avvoltoio sul mazzolo sulla vecchietta della sua nonna. Lei si è appena ripreso. Evidentemente le sono rimaste due spira le zampe in diretta, io vado a mangiare il pesce. Ma glielo offro io. Sesta proiezione, vi interrompo. Sesta proiezione istituto Piepoli Lombardia. Piepoli Lombardia. Maroni 42,6, Ambrosoli 37,6. Dunque distacco che è più o meno sui quant'è? 5 punti. Carcaro 5 stelle 13,8, Albertini 4,7. Eccetera, eccetera. Vi interrompo così, Francesco da Treviso, 800240024. Francesco. No, povero idiota, dai. Buonasera, Cruciani, buonasera, Parenzo. Vada. Volevo fare una domanda a Parenzo. Parenzo, sì. Io la giudico una persona intelligente. Volevo sì. chiederle questo: come fa lei a osannare oggi Bersani, che è riuscito a perdere un'elezione, no, che vinceva ha detto un'altra cosa, non no, l'ha osannato. Va bene, hai parlato di grande discorso, però ha fatto un intervento di responsabilità. Ma quale intervento? Ma vuoi parlare come mangi? Ma la gente non gliene frega niente dell'intervento di responsabilità. Ma parli in politichese. Ha detto chiaramente, è un paese. Ma cosa ha detto che non ha capito nulla ha nessuno? Detto, no, tranne noi che dobbiamo fare che dobbiamo divinare fare quel poveretto. Come quel poveretto appena uscito dal riparto di rianimazione. Ma che c'entra? Ma cosa che c'entra? Che ha trovato un telefono, è l'unica cosa. Ha visto, si è svegliato, a un certo punto ha visto il numero verde 800 24 24. Vabbè. E ha chiamato, poveretto. Allora invece a questa persona che sì. mi chiede, dico semplicemente che Bersani ha detto una cosa che è la palissiana, cioè non c'è una maggioranza che possa governare. Il 5 Stelle, che ha fatto la campagna elettorale dicendo affanculo tutti a casa, ora è lì e qualcosa deve fare. Ora bisogna spiegare a questi neosenatori e questi neoparlamentari che purtroppo fino a ancora oggi in democrazia funziona che ci saranno delle consultazioni sì. e poi verrà dato il mandato a un signore sì. che dovrà chiedere la fiducia. Purtroppo è così, non lo puoi fare e dal allora... web per ora, per ora, per ora, per ora. Per ora! Avete capito? Filippo da Pescara, 800 hai fatto, la tua, hai fatto la tua discorso di militanza piddina. Filippo per da Pescara, Filippo tu, da Pescara, Cruciani. Buonasera. Cruciani, no, ma stai zitto, stai zitto. Tutto. Filippo da Pescara. Buonasera, buonasera. Storace dice, ho appena chiamato Zingaretti per fargli gli auguri. Dunque riconosce la sconfitta ormai nelle cose. Filippo da Pescara, poco fa Ambrosoli diceva che invece si aspetta grandi risultati dallo spoglio che continua. Filippo da Pescara. Buonasera, buonasera. Allora io volevo solamente rispondere a quello che lei aveva affermato poco tempo fa, però la senatrice del Movimento a 5 Stelle ha già risposto in parte. Cioè? Cioè sono pronti a fare un accordo col Partito Democratico? No, lei assolutamente no. Se lei va sul blog, di Beppe Grillo, in prima pagina c'è scritto chiaramente, basta andare sul blog, che il Movimento 5 Stelle non si alleerà con nessuno. Sì, ma l'alleanza è una cosa, le alleanze sono una cosa. No, le alleanze scritto, in Parlamento, vado a vedere. È una... Sì, ma lasci c'è perdere scritto, quello che c'è scritto. Ci sarà una mucchia. Ma che me ne frega a me di quello che c'è scritto? Abbia pazienza. No, guardi che carta canta. Filippo, non, come ha Filippo, detto lei, Filippo, canta. Filippo, scusi un attimo. Adesso, non è che sia rappresentativa di tutti i senatori a 5 Stelle. La senatrice di prima, ha detto innanzitutto che non si deve andare a votare subito. Prima cosa, non si deve andare a votare subito, che è un po' il contrario, se vogliamo, di quello che è l'obiettivo del 5 Stelle. Ha detto altrimenti prenderemo il 100% e distruggeremo tutti i partiti. Ma questo era l'obiettivo principale di Grillo, in realtà. Dunque, la cosa è un po'... Cioè, non tutti la pensano come Grillo su questo punto, Filippo? No, Beppe Grillo vuole solamente che le cose si facciano, punto. È un partito che è nato per far fare ciò che quello... Quello che non hanno fatto in questi anni, e questo il compito in questo momento, secondo me, dal mio punto di vista, lo dovrà fare Bersani con Berlusconi. E come al solito Bersani l'ha fatta fuori dalla tazza, perché ha sbagliato per l'ennesima volta dicendo che vuole fare l'alleanza con Grillo, quando c'è scritto no, l'alleanza chiaramente... non l'ha detto, in questo momento non si parla di alleanze, ma di altre cose, per creare un governo qualcuno gli dovrà dare i voti, penso, no? Che non sarà Grillo. Alleanze formali no. Non sarà Grillo. Va bene, è Luigi dalla provincia di Monza. Ho capito, Luigi dalla provincia di Monza. Buonasera. Buongiorno, buonasera ai presenti, saluti soprattutto le gentili signori in ascolto. Sì. Sono Luigi dai Mercate. Caro Cruciani, io alla sua età ho fatto la maratona in 2:35. Vabbè, quindi, non me ne frega niente in questo momento, Luigi, parli di politica perché allora, non me ne frega allora, di meno. Allora, ritornando a Bersani, che dicono tutti chi ha perso, eccetera. Bersani ha il 55% la Camera, 340 parlamentari, quindi ha la maggioranza assoluta. Per quanto riguarda il Senato, e già come ha sentito anche l'esponente della... dei grillini, ha detto che su cose fondamentali o cose che loro ritengono opportuno votano, come sta succedendo in Sicilia anche con tecnica diversa. Quindi cos'è che menate il camperlaia? Bersani ha vinto la grande. Luigi, saluti. Lei è l'unico in Italia che pensa che Bersani abbia vinto la grande, nemmeno lui lo pensa. Oggi ha detto siamo il primo partito ma non abbiamo vinto, per certo, cui perché... lei è più realista di Bersani, però, figuriamoci un po'. Sì, posso parlare? Sì, può parlare, certo, ma lei può dire quello che vuole, si può immaginare il mondo che vuole. Ma insomma. Sì, perché noi della sinistra vediamo sempre il bicchiere meno vuoto. Ma no, ma lei può pensare quello che vuole, che ha trionfato, che c'è il sol dell'avvenire. Ma che c'entra? Ma quello come non c'entra nulla. Come che c'entra? Alla Camera c'è la maggioranza assoluta, il 55%. Sì, ma questo ma lei dice una cosa palissiana, caro Luigi. Insomma, Bersani non ha vinto, anzi, ha perso personalmente Bersani. Ha perso la sua battaglia. La battaglia era quella di portare il centrosinistra al governo, alla Camera e al Senato. Battaglia persa, cioè, battaglia politica persa. Quando si mette a dire io vado in Parlamento a trovare una maggioranza sui singoli punti, eccetera, è già finita la cosa, finito. Andrea, provincia di Gorizia. Buonasera, dica. Pronto? Sì. Pronto, la sento lontanissimo. Vada, Andrea. Buonasera, io sono un ragazzo di 25 anni, ho votato il Movimento 5 Stelle, diciamo che ho avuto la possibilità di votare due volte oltre a questa. La prima volta avevo votato Berlusconi, la seconda volta avevo votato Fini, sì. Ora mi hanno rotto veramente le balle tutti e ho deciso di votare Beppe Grillo, perché secondo me è un movimento che fa per la gente, questo io volevo dire. Volevo chiedere anche un attimino... Vabbè, lei ci sta giovane, dicendo semplicemente che ha votato per i 5 Stelle, questo sta dicendo... Sì, e volevo chiedere anche... Archiviamo un'altra... questa cosa, ha votato 5 Stelle come il 25% degli italiani, poi? Poi volevo chiedere, quello che parlava prima il signor Parenzo... Ma qui non Parenzo, si chiede nulla, qui si interviene, si dice la propria, basta, punto, che deve chiedere lei? Io volevo chiederle, visto che voi siete sicuramente più esperti di ma me... Ma io non sono più esperto di nulla, diventi esperto lei, forza! Che cos'è il voto di fiducia? Ma il voto di fiducia è alla Camera e al Senato, lo prevede la Costituzione, il governo deve andare a chiedere la fiducia alla Camera e al Senato. Ma abbiamo con noi un grande presidente di regione, eletto con una larga maggioranza, almeno con un grande numero di voti, che già sta sperimentando, caro Parenzo, già sta sperimentando l'accordo, comunque, cosa significa governare in parte con i grillini, con rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Ben ritrovato alla Zanzara Rosario Crocetta, buonasera. Buonasera. Presidente, come sta? Bene, bene. Allora? Vabbè, possiamo parlare di convergenze parallele. Cioè, come convergenze parallele, Presidente? Lei se le ricorda le famose convergenze e come? Parallele? Quelle erano quelle, certo. Come? Quelle di tutte, no? Sì. E perché non pensare che in una fase così difficile del paese un movimento come quello di Grillo è un partito, il Partito Democratico, possano mettersi d'accordo, possono puntare a dei processi di riforma insieme. Però non parli di convergenze parallele, di convergenze parallele, perché sennò la gente non capisce nulla e si mette paura. Lo so, ma lei no, se voi mettete paura non lo so. Le convergenze parallele. Voglio dire, se lo capiamo noi, perché non lo dovrebbe capire la gente? Per uscire fuori dal politichese, Presidente Crocetta, lei dice... No, ma voglio dire con chiarezza, cioè ognuno sta dentro il percorso che si è dato, però puntare su degli obiettivi importanti che sono comuni. Cioè, lei dia un consiglio a Bersani, che è nella sua stessa situazione in pratica, no? Il consiglio qual è con Grillo? Come comportarsi? Se uno comincia a smettere di dire che Grillo era una specie di cantore dello sfacelo e comincia a pensare che dietro il movimento di Grillo invece ci sono delle cose belle, come ci sono, sì, e comincia a praticare. Per esempio, la questione, voglio dire, dei privilegi delle caste, sì, è una cosa falsa, è una cosa vera. Io sto, sì, facendo una grande battaglia in questo senso, sì, ma li dobbiamo vedere solo dentro i politici e dentro il Parlamento, va visto dentro l'alta burocrazia, va visto in una serie di fondazioni, associazioni. Cioè lei dice che è sbagliato, per esempio, il fatto che Bersani durante la campagna elettorale abbia dato del miliardario a Grillo, del fascista a Grillo, eccetera, eccetera. Deve cambiare tono Bersani nei confronti di Grillo, per esempio? Essere miliardario è mica una colpa, anzi addirittura voglio dire, secondo l'etica protestante persino sarebbe una, no, appunto, voglio dire, riconoscimento di una, della grazia di Dio, no, che vuol dire che uno è miliardario, bisogna vedere come uno fa i soldi, no, dunque bisogna che Bersani cambi un po' tono nei confronti di Grillo, perché per carità, mi pare ovvio, anche per rispettare gli elettori, cioè quando si diventa indicati quando si è indicati al paese a fare il premier, si ha un dovere istituzionale di confronto. Io quando sono diventato presidente della regione, sì, intanto non ho polemizzato affatto in campagna elettorale nei confronti dei grillini, non l'avevo fatto e non l'ha fatto manco Grillo, anzi c'è stato un riconoscimento reciproco durante la campagna elettorale, gli apprezzamenti. Beh, è un po' diverso, perché Grillo durante la campagna ha detto che era un uomo impegnato nella lotta alla mafia, che avevo i compagni cattivi. E io gli dicevo che la Sicilia non si poteva salvare solo a nuoto, ma erano delle battutine simpatiche, che riconoscevo in lui una grande sì, fatto sì, della titolarità di grandi battaglie importanti. Poi subito dopo le elezioni, quando qualcuno ha tentato, e sono stati grandi partiti, tipo PD, sì, tipo DC e i PDL, che volevano escludere i grillini dalle istituzioni siciliane, io mi sono opposto, ma mi sono opposto come mi sono opposto nei confronti di chiunque. Cioè lei darebbe, per esempio, offrirebbe la presidenza della Camera, dove pure il Partito Democratico ha la maggioranza, a un rappresentante di Grillo? No, io non riesco a capire questi termini della politica. Se uno è bravo e si trova un bel soggetto, sì, io conosco diversi parlamentari grillini, sono stati eletti, sono in Sicilia, correggete con la testa veramente a posto, che sa fare le cose. Cioè, secondo lei, noi lo sa, siamo giornalisti, dobbiamo un po' ridurre. Governissimo forse è una formula che non piace, perché fa pensare all'inciuccio, eccetera. Esatto. No, governissimo sia un tentativo di accordo con Grillo. No, ha fatto l'accordo istituzionale, ripeto, e convergenza, quando dico le convergenze parallele, dico quella convergenza per cui da due binari, da due punti di vista diversi, da due percorsi diversi, si può raggiungere. Il problema di liberare questo paese da lacci, da ciuoli, da una insensibilità sociale persino cinica che si è imposta negli ultimi anni, sì, e particolarmente sostenuta con vigore fino all'ultimo anche dal precedente governo, che non si è preoccupato minimamente affatto, che a un certo punto la politica che cioè lei l'avete possibile attuato, faceva rigore ma faceva recessione. Scusi un attimo, Crocetta, lei conservare l'euro, però il valore dell'euro però ha prodotto l'immobilità assoluta, le imprese non vengono pagate, se poi di becca l'Italia li annienta, i precari sono sempre precari, in nessun paese europeo un precario è precario più di 3 anni, in Italia è persino lo Stato che li mantiene. Scusi un attimo, Crocetta, dunque, capito Parenzo, il consiglio è quello di fare, non dico un accordo eccetera, ma insomma di andare verso Grillo, cioè sì a Grillo e no a Berlusconi, questa io è la sostanza. Crocetta. Se Crocetta mi sembra, intanto lo saluto e lo abbraccio fortissimo, ci siamo visti quanto tempo fa. Fallita. Non è che io dico no a Berlusconi perché chissà per quale motivo ce l'ho con Berlusconi, no? È una formula vecchia, perché uno che dice le cose che ha detto in campagna elettorale non è credibile. Mi pare di capire. Alle promesse, alle promesse per non parlare delle metafore, per non parlare, ho capito, la restituzione dell'IMU. Sì. Voglio dire, non è il problema della restituzione dell'IMU, il problema è che disegno complessivo hai del paese, come facciamo a rinascere l'economia, come interveniamo a eliminare gap che sono strutturali, come investiamo sulle città. Senta, che consiglio dobbiamo continuare ancora con le grandi opere, o dobbiamo puntare alle vivibilità delle città, questo non creerebbe. Però scusi Crocetta, durante la campagna elettorale su queste cose qua, tra Grillo e il PD c'è stato c'è stata una guerra all'ultimo sangue, cioè voi siete gli sfascisti, non volete costruire nulla, adesso mi pare strano che uno di punto in bianco solo perché ha bisogno dei voti al Senato faccia delle aperture, cioè, non mi pare che questa sia stata la mia posizione, cioè, no, la sua no, che c'entra? No, non è stata mai la mia posizione, no, la sua no. Grillo ha detto che una delle poche persone con cui discuterebbe sono io. Cioè, voglio può dire, fare da pontiere lei, Crocetta, perché non si offre di fare da pontiere, da grande ma io non voglio fare da pompiere, penso che si ha il dovere rispetto a una crisi profonda del paese che rischia una instabilità e un caos che sicuramente sarebbe pagato dal paese, gli atti di responsabilità generale dove ci si possa mettere su ma come si fa a prendere la fiducia al Senato, Crocetta? A trovare intese su questioni importanti col 5 Stelle e veramente riformatrici che cambiano il paese, penso che sarebbe l'interesse generale. Parenzo, dimmi di qualcosa. No, voglio dire all'amico Crocetta, tanto Zingaretti ha vinto, sta facendo i ringraziamenti a tutti, abbraccio fortissimo. Mi pare di capire, Crocetta, che tu ci diamo del tuo, lo diciamo da anni ormai, mi pare di capire, Crocetta, che sei più ma che vi conoscete? Dove vi conoscete? Siamo visti anche all'area che tira un sacco di volte, insomma, io mi piace moltissimo Crocetta. Però voglio dire questo, mi pare di sintetizzare così, cioè meglio tutti questi voti a Grillo che non a Berlusconi, no? Ma questo mi pare dal mio punto di vista proprio la BC. Proprio la BC, anch'io la penso allo stesso modo, insomma, voglio dire, anche perché mi pare che ormai su Berlusconi sembra veramente superstato, voglio dire, è stata un'operazione di quelle così, di risurrezione di mummie egizie che sono state riproposte. Risurrezione di mummie egizie addirittura, però ha fatto una grande rimonta, Crocetta ha fatto una grande rimonta. C'è stata una capacità, voglio dire, Berlusconi. Però adesso arrivano le critiche al PD, perché lì... Chissà quali riti abbia utilizzato per che riti ha utilizzato? Che riti ha utilizzato? Qualche punturina. Abbiamo qui l'uomo che sta sperimentando l'accordo con i grillini. Cosa significa governare con Grillo? Il mitologico Rosario Crocetta, presidente della Sicilia, esponente del Partito Democratico, ex europarlamentare, il quale... Però, insomma, in Sicilia, caro Crocetta, il premio di maggioranza è andato agli altri, però, caro Crocetta, avete perso in Sicilia. Ma mi pare logico questo, cioè voglio dire, io mi ho vinto... Ha così, presentato pure la lista sua lì? Questi ragionamenti che hanno fatto tutti chiusi a sinistra in Sicilia. Cioè? Io ho vinto in Sicilia perché ho scontato una parte del centro, perché i grillini andavano per i fatti d'oro, la sinistra alternativa... Chi ha sbagliato? Abbiamo fatto l'accordo con l'UDC e col centro, e sono i voti esattamente che mancano per fare prendere il premio di maggioranza. Però mi dica la verità, Bersani, in cosa... Non mi pare che sia stata nota tra le regioni di sinistra, eppure adesso ha un presidente di sinistra. Certo, scusi un attimo, chi ha sbagliato la campagna elettorale alla fine? Bersani, cosa ha sbagliato? Una campagna elettorale moscia? No. Come no? Non sei sbagliare, sono le scelte politiche che si fanno, eccetera. Cioè, da un lato c'è questa richiesta forte che chiede alla politica un capovolgimento, e i partiti dovrebbero avere la capacità di incontrarsi con i movimenti. Dall'altro c'è stata una chiusura, diciamo, o se scegli una linea che apre ai settori moderati, poi devi avere... Devi portare dentro, dei moderati. Invece lì l'UDC è andato... Da solo. Suicidarsi con Monti, insomma, voglio dire, hanno fatto un capolavoro. Casini ha distrutto Monti, ha distrutto la democrazia. Senta, ma le faccio una domanda un po' strana, ma secondo lei, come atteggiamento, come tutto, Parenzo, senti un po' che stronzata tiro fuori, sì. Ma Grillo è più gay o più etero, Crocetta? Così, come atteggiamento? Onestamente la domanda mi pare un po', onestamente, un po' ridicola, inconsistente, nel senso che uno che se ne frega. Ma in ogni caso mi sembra proprio un macio macista. Ecco, appunto. No, ma non gliela faccio a caso. Ma devo dire che è molto simpatico. Cioè non gliela faccio a caso, perché lei sa che ma Grillo... Ma perché dovrebbero essere tutti gay le persone. No, meno male che c'è qualcuno, fortunatamente, che non è gay. No, per carità. No, perché sa che Grillo è stato sempre accusato di essere un po' macho da questo punto di vista, il suo movimento di essere anche un macho, po'. È macho, e lo è. E lo vuol dire? No, ma a lei piace la anche. La domanda ci sta. La domanda ci sta, su, la domanda la ci sta. Domanda non è ci anche sta un per po'. Allora, che facciamo? Lei lo vede a Signorini che fa un movimento politico, no, alla Grillo? No, che c'entra? Quello è chiaro, no. Voglio dire. Cioè, bisogna essere un po' bisogna essere un po' maci, lei dice, per no, fare. No, non bisogna essere maci affatto, non bisogna. Allora io che vinco pure, che penso un'elezione, che vuol dire? Che lei è un omosessuale atipico, però, non è che come Signorini, diciamo, su. È simpatico Signorini, non mi faccio dire. No, simpaticissimo, ma... perché Crocetta sceglie di essere quello che vuole. No, guardi, sì, eh. Sì, certo. No, io, insomma, è stato accusato anche di essere un po' omofobo. Grillo molto libera, anzi la politica non dovrebbe mai entrare in queste cose. No, certo. Parenzo, che dicevi? Dico che il presidente dico che il presidente Crocetta riesce no, a mettere questi toni, è fascista, cioè non mi piace. Bisogna rispettare sempre le persone e porsi il problema di quali idee porti avanti. L'accordo istituzionale io penso addirittura che vada fatto con tutti, cioè non è che per esempio allora che fa un voglio dire il centrodestra va escluso dall'accordo istituzionale, mi sembrerebbe. No, ma lei vuole fare un accordo con Grillo, un'altra cosa poi sono le commissioni. Ho capito, ma lei vuole fare un accordo nelle istituzioni, ma bisogna assicurare a tutti una società veramente democratica da spazio. Cioè, Crocetta, ho capito, ma lei non è che può fare un accordo con Berlusconi insieme con Grillo, cioè è una follia, o si sceglie l'uno o si sceglie l'altro. Ma no, ma lo so, per oggi siamo capiti, lei confonde il profilo istituzionale con quello del governo. Ma che sì, fa? No, ho capito. Il presidenza di commissioni in cui ci saranno anche il centrodestra, quello sì, certo, ci saranno pure, certo. Voglio dire, oppure si pensa che il centrodestra viene escluso da tutto. Ma no. Non mi pare che cioè voglio dire che quello sia un bel comunque esempio, secondo me lì un bel esempio di democrazia. No, però Berlusconi ci si confronta e si cerca di trovare le persone più giuste per tutto. Questo è il mio modo di concepire. Scusi un attimo Crocetta, la politica, la domanda io ritengo che con Grillo si possano raggiungere temi comuni al centro-sinistra che sono cari anche a tutta parte del sinistra, si possa raggiungere un accordo, delle convergenze importanti che possano portare anche. Ma è una costola della sinistra, secondo lei? Che si fanno per la salvezza del paese. Ma è una costola della sinistra? Non credo che Grillo si vorrà assumere la responsabilità di mandare tutto allo spazio. Ma è una costola della sinistra, Grillo, secondo lei? No, beh, un po'. Che bisogna superarli un po' questi schemi. Parenzo, che volevi dire? Volevo dire al presidente Crocetta che lui è la perfetta sintesi in realtà della delicatezza del governo, della sensibilità degli omosessuali, quindi con quella sua delicatezza con cui fa le cose, affronta i temi, e la virilità del comando. Quindi questa è la cosa più bella della di questa sensibilità, no? Riuscire a mettere insieme questa appunto delicatezza, questa armonia bellissima tra il bastone del comando e quindi a governare il potere, la roba, no? No, ma prima dicevamo la cosa di Grillo, presidente, perché in realtà è stato Grillo accusato invece anche di atteggiamenti omofobi in passato, da alcune donne. Ma chi non ha avuto atteggiamenti omofobi? Cioè voglio dire, qui dobbiamo capire che siamo col culo per terra, per rimanere il tema, e che a un certo punto bisogna darsi una mossa, non è che si può lasciare il paese alla deriva, noi abbiamo i problemi disoccupati, vabbè, dei precari, degli imprenditori che si suicidano, sì. Allora è su tutto questo che diamo di un paese che chiede più riforma, che chiede più trasparenza, su tutto questo, al di là delle stronzate più o meno che uno avrà detto. Comunque Grillo ha detto che il modello Sicilia è meraviglioso, l'ha detto nel pomeriggio, il modello Sicilia è un modello meraviglioso. E allora che vuol dire? Che io sono riuscito anche ad aprire su cose importanti. Ma lei, Presidente della Repubblica, una politica rigorosa. Vabbè, il Presidente della Repubblica, chi lo farebbe fare? Io ho fatto, ho inserito interi dipartimenti della regione per laddove individuate il malaffare. Non mi pare che allora mettersi d'accordo sul cambio della burocrazia, sul ragionamento, sono atti Crocetta, di ma questo va benissimo. Va benissimo, no? Senta un attimo, lei chi lo farebbe fare il Presidente della Repubblica? Fo ha declinato, c'ha un nome pure lei? un nome io. Presidente della Repubblica. Beh, ci manca che mi fa far casino pure io, ma scegliamo un nome bello che vada bene a tutti. Beh, a tutti. Un uomo scusi, se non avesse superato i limiti di età, mi piacerebbe molto Camilleri, per esempio. Camilleri. Questa è buona, però, dire, ma quello non ha mai, ha sempre rifiutato. Ha una certa età, una certa fatica, però in altri anni sarebbe stato una... Ma non sarebbe, per esempio, una grande novità? Tipo, una persona, un grande mette a panse, finalmente qualcuno mette in campo idee, valori e non mette le solite stronzate della politica. Cioè, per esempio, chi? Oltre a Camilleri, chi ci potrebbe essere? Senta, non sarebbe l'ideale la prima volta di un presidente gay? Sarebbe bellissimo, presidente della Repubblica. Ma non lo so se sarebbe bellissimo, perché conosco tanti gay così stronzi, per cui non è che voglio dire quello fa una cosa, sarebbe un altro pregiudizio, no? Al contrario. Però gli uomini e le donne si incontrano al di là di tutte queste cose, di queste cose. Beh, però sarebbe bello su un presidente della Repubblica omosessuale. Sarebbe bello. Io penso che ormai questa discriminazione del paese sia ormai fuori. Sarebbe invece opportuno cominciare a pensare, per esempio, si potrebbero mettere d'accordo Grillo e Bersani finalmente per fare riconoscere in Italia le coppie omosessuali, sulle coppie di fatto, per esempio, come esiste. Però un presidente gay non è male, i paesi europei, salvo la Lituania e qualche altro, insomma, e decidere che questa essere europei è qualcosa di serio, non è, lo consiglio a Bersani e a Grillo solo per proteggere la Merkel, insomma. Grazie presidente, a presto, grazie. Albertini, vieni giù che sei frocio pure tu. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, è la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, è la zanzara dispettosa, fa zazza. I primi dati, le prime proiezioni, finora abbiamo visto il Senato, le prime proiezioni per la Camera dei Deputati. Io prima avevo visto Beppe Grillo in redazione, sa lì? Per piacere facciamo un po' di calma, qua sta succedendo di tutto. Qui dirigenti RAI che stanno smobilitando l'ufficio, si stanno trasferendo. Un cameraman è scappato, ha chiesto asilo politico a Capodistria. Qui non si può. De Mita, non ho tempo adesso, De Mita, per piacere. Sta succedendo di tutti, comunque calma, ci sono ancora i seggi, gli ultimi seggi. Chissà che non succede qualche cosa. Ci sono i seggi di Lourdes e di Fatima. Chissà che qualche miracolino non succede. Si avvicina a me piano piano. Era un Beppe Grillo addirittura in una serata elettorale, da quello che sono riuscito a capire, con Bruno Vespa. Damiano da Bologna, buonasera. Vedi come cambiano i tempi. Dico, adesso innanzitutto vi ringrazio perché allietate le mie serate, bellissimo. Poi mi chiedo se Bersani non riuscirà a mettere insieme un governo. Sì. Il Cerino passerà a Berlusconi o a Grillo? Non ho capito. Il Cerino, dico, poi passerà a Berlusconi e Grillo? Ma non passerà nessun Cerino, cioè non passerà non nessun Cerino. A Berlusconi o a Grillo di fare un governo? Ma non credo proprio, a Berlusconi no, di certo, tantomeno a Grillo, insomma. Dopo Bersani quindi, ci può essere o un altro Bersani esponente, oppure... o ci riesce Bersani, oppure... O si va a votare. O si va a votare, o ci sarà un altro esponente di quell'area che magari cercherà un accordo istituzionale, ma insomma ancora le ipotesi sono tante. Da quello che sembra appunto venire dall'intervento di Bersani oggi... Ma visto che il vincitore di queste elezioni alla fine poi è Grillo, ma perché non chiediamo a Grillo di fare un governo? Ma il vincitore non ha la maggioranza in Parlamento, signor Grillo, cioè c'è anche la legge elettorale. Ma non ce l'ha nessuno. No, ma ce l'ha nessuno. Alla Camera ce l'ha Bersani più Sella, al Senato non ce l'ha nessuno. Il problema è uno solo, bisogna andare con un programma chiaro, cioè quello di eliminare il finanziamento pubblico dei partiti, dimezzare il numero di deputati, cancellare il Senato, basta con questa follia. Perché Parenzo deve esistere ancora il Senato? Perché la Costituzione ma è intoccabile. Ma un iPad. No, tirare giù la Claire, basta fare una scritta con scritto Fondazione Senato, è finita. Il Senato non serve in paesi normali e piccoli come l'Italia. Ma stai tranquillo un attimo, fammi finire. chiudere il Senato, chiudere il Senato, dice i dipendenti che fanno? I dipendenti del Senato restano lì a spolverare, a raccogliere i libri per la Fondazione Senato, a raccogliere i busti degli ultimi senatori, cioè fino a quando vanno in pensione o invecchiano, punto e basta. Li manteniamo noi fino alla fine, poi diventa altro che Senato, Fondazione Senato. Ma va benissimo. Poi magari ma tra vent'anni ci sarà anche Hotel Senato lì. Ma no, ma oppure fine... si vende il palazzo. Cioè non ha senso ancora l'esistenza di Camera e Senato che fanno le stesse cose. Ma siamo d'accordo, ma basta, sono anni che si parla della fine del cosiddetto bipolarismo perfetto, della, ma non c'entra, della navetta, no, dell'abolizione del Senato, della riforma istituzionale. Sono anni che si parla di questo. Appunto, anni, appunto. Anni. Questo è giustissimo, questo andava fatto prima, andava fatto ieri, l'altro ieri. Ma un governo dovrebbe fare solo quello, il resto sono tutte chiacchiere. Ma oggi il problema non è questo. Come non oggi è questo? È una questo. Pattuglia di come grillini no? È che sono il in tema. Parlamento e che vogliano o non vogliano, piaccia o non piaccia, fino ad oggi devono stare alle regole che oggi ci sono, poi aboliranno il Senato. Ma che c'entra? Ma dove l'aboliscono? L'aboliscono in Parlamento, no? Ma lo devono fare col Parlamento, non con un click dall'iPad. No, giusto? In Parlamento. Allora, Damiano da Bologna, Damiano, dica, Damiano, sì, ma non ti preoccupare. Io nella mia, ho 53 anni, sì. Ho visto che nel 94 andarono al governo Missini, Lega, con il boom di Berlusconi. Sì. Qualche anno dopo, con Prodi, salirono degli altri. Sì. Io allora vivevo in una città molto piccola in Sicilia, dove ci conosciamo tutti. I due onorevoli che andarono allora con Berlusconi e quelli che sono andati dopo con Prodi, io li conoscevo perché erano i miei compagni di scuola. Conoscendo quelle persone lì, ti posso dire che nessuno mai di quelli che adesso sono due onorevoli e uno senatore, capito? Nessuna di quelle persone lì rinuncerà mai a quel mandato, nessuno rinuncerà mai ai soldi, quelle persone lì si faranno ammazzare ma rimarranno lì attaccate alle sedie e peggio di fili. Lei ha ragione, non diminuiranno mai il numero di parlamentari perché nessuno si suiciderà ed è questo il punto, non si manderanno mai via i senatori perché il Senato non serve a nulla, una delle due Camere va cancellata, non il Senato delle regioni o cose di questo tipo, va cancellato il bicameralismo, so che parlo un po' in politichese, questa cosa qui va cancellata perché non serve, fa perdere tempo. Non siamo gli Stati Uniti noi che dobbiamo avere il Senato, non siamo gli Stati Uniti, non è il 48, si possono cambiare le cose, non sono eterne, il finanziamento pubblico va tolto altrimenti i partiti sopravviveranno sempre così come sono, cioè degli enti burocratici enormi che mantengono un sacco di gente. Antonio dalla provincia di Napoli. Antonio, dire due cose. Allora, numero uno, io sono incazzato nero con tutti i meridionali che votano Berlusconi. Ma chi perché... se ne frega di queste cose? Ma che frega? Vuol dire i meridionali? La Lega ci sputa addosso e tutti a votare Berlusconi. Punto uno. Però vabbè. Punto due, ci sarebbe la risposta perché i meridionali votano Berlusconi. Perché in Campania, e dico queste tre regioni, sì, ci resta un motivo, Campania, Puglia e Sicilia. Sì. E anche Calabria in realtà. Anche Calabria, bravo, hai capito perché, voglio dire, no? No, non ho capito, me lo spieghi lei. Popolo delle libertà. Sì, non ho capito bene, scusa. Altre volte hanno votato a sinistra però, eh? No, la maggior parte di sempre Sicilia, sono sempre le regioni queste qua che prendono più voti che Berlusconi. Ma poi, scusa, non ti pare curioso, per carità, è il cinismo della politica, eccetera, però è una cosa smaccata. L'agenda di Bersani al primo posto, costi della politica e moralità. A parte la parola moralità non significa nulla, potrebbe essere conflitto di legge su conflitto di interessi, potrebbe essere qualsiasi altra cosa, una parola generica. I costi della politica, ma quando mai sono stati al centro della campagna elettorale di Bersani? Mai. Però tu dici, no, il realismo di fronte al fatto che bisogna trattare con i grillini che hanno queste cose al primo posto, il realismo della politica. Vedremo. Facile pure cucinare. D'altra parte la grillina che abbiamo sentito prima ha detto non vogliamo sfasciare tutto, magari è un atteggiamento comune che c'è tra i grillini, ma speriamo, forse si sono finalmente resi conto che il loro leader, certo, le ultime parole di Grillo sono queste, ma tu hai sentito oggi Grillo? Sì. Cosa ha detto quando gli chiedevano scusi ma allora voterete la fiducia? Ma io non mi occupo di queste cose. Beppe, ma come non ti occupi di quel... Ma io non mi... È morto! Domande morte! Scusi, però, la fiducia è un passaggio che per ora c'è ancora. Ma se ne fottono! È tutto finito, è morto tutto! Ma non è morto niente, c'è la fiducia da dare comunque, c'è da farlo. Antonio Latrani, buonasera. Salve, buonasera. Dica. Volevo dire che il governatore Crocetta ha anticipato il mio intervento. Io sostengo che mai abbiamo avuto questa fortuna di poter governare l'Italia con questa maggioranza e con il quale maggioranza, scusa? Glielo spiego subito. Con il sacrificio di pochissime persone. Cioè, quello che non ha detto Crocetta, che se si dimettesse Bersani. No, veramente non ha mai parlato di dimissioni di Bersani. Quale dimissioni di Bersani? Non si sente nulla. Sara da Trento, buonasera. Sì, buonasera signor Cruciani. Dica. Senta, io ce l'ho, non a morte però quasi, con il signor Parenzo. Perché? Perché lui pensa che, non, che io ho votato Grillo, che noi abbiamo votato Grillo per protesta, noi abbiamo votato Grillo per il suo programma. Vabbè. Perché lui dice delle cose peggio chiare. Mi sento. Bersani è una... E il signor Parenzo, se sta attento, perché non dica stupidaggini, signor Parenzo. In che senso? Ma io mi sento ancora peggio. Quello che ha detto Bersani, quello che ha detto Bersani, si è contraddetto continuamente. Cioè, ma io mi sento male. Ha fatto una campagna solamente di discredito verso il Grillo e verso Berlusconi, verso Monti, verso ma e adesso viene vuole allearsi con Grillo. Ma io allora mi sento ancora peggio. Mi sento peggio, perché se uno mi dice ho votato Grillo come voto di protesta, dico vabbè, poverino, d'accordo, no, ma se lei mi dice che l'ha votato per il programma, io svengo, perché io voglio andare ancora con la macchina, non voglio solo pannelli solari dappertutto, io voglio la TAV, io mi sento male se lei mi dice che ha votato per il programma, sto male, male sto se me lo dice, se lei invece lei mi dice che non l'ho votato perché volevo andare... Metà deputati a Roma, mi tengo metà stipendio, mi tengo tutta la metà e poi le altre cose le discuterà lei, però il programma essenziale di Grillo è quello. Ma... e mi dispiace per lei perché lei ha perso, ok? Ma che io cosa voglio ha perso? Gli inceneritori, non voglio i rifiuti sotto casa, capito? Con Bersani, quello pure io, e noi quello... discutiamo con Grillo di altre cose, se lei non sta bene, inutile che continui sempre a dire ma Grillo qua, ma Grillo là, è morte questo, è morte l'altro, e io invece mi metto a fare ostruzione a lei e dico è Bersani qui, è Bersani ma là, non e qui, quell'altro, Bersani, è non sto difendendo, ma non qua. Sto di... si calmi, spenga l'iPad che non è tutto in rete. Si può anche discutere fuori da questa rete, ha capito? Primo. Secondo, se lei mi dice che ha votato il programma di Grillo, nel programma di Grillo ci sono delle cose agghiaccianti, è meglio che lei invece mi dica ho votato Grillo perché mi stavano tutti sui coglioni, e io questo lo capisco di più, ha capito? Io voglio TAV, voglio che il treno arrivi velocissimo da Cuneo alla Sicilia, io voglio andare velocissimo, non voglio perdere tempo. Alfredo da Varese, buonasera. Ha capito? Anch'io, ma Alfredo da Varese. Ma che c'è? Io adesso per altri... vai col Calessa, hai capito? Per altri motivi se l'ho io votato. Ti vedo su... Se io adesso, amici della Zanzara, ma... se riconoscete Cruciani, io... adesso vai col regionale e non mi rompi i coglioni, vai sul regionale. Tu ora vai solo sui temi regionali o col Calessa. Sei un poveraccio. Hai capito? Sei un poveraccio. Perché se io faccio un appello agli ascoltatori della Zanzara, amici... Sì. Se vedete il signor Cruciani Casaleggio, cioè lui Cruciani in Casaleggio, sì, sul treno, sì, sull'alta velocità Milano-Roma, sì, Milano-Roma, voi tirate il freno che interrompe il treno, bloccate tutto, improvvisamente tirate il freno rosso, bloccate il treno, no, prendete no. Cruciani per l'orecchio ma con delicatezza e amore, dice adesso scendi. Senti, e ora vai a piedi. Ti devo vai. Spiegare i motivi per cui uno vota un candidato, un movimento, eccetera? Ora vai col Calessa. Ti sbagli, amico vai mio, Calessa, io prendo piccoli ora. Pezzi di qualcuno e lo voto. Non tutto, capito? Anch'io voglio andare veloce, voglio avere la TAV, voglio gli inceneritori, voglio la modernità, non voglio andare lento. Alfredo, dica. Sì, salve, dottor Cruciani. No, volevo intervenire su due punti. Uno, in merito alle elezioni di Bersani, che oggi l'abbiamo sentito parlare, sembrava un cane bastonato, sembrava un po' ubriaco, diciamo. Dallo sbranatore che era prima delle elezioni mi sembrava quasi uno sbranato. D'altra parte io penso che da un ex sindacalista non è che si possa aspettare che possa essere in grado di governare l'Italia. Un attimo. Allora, Alfredo? Sì, no, stavo dicendo che non mi sembra la persona più ideale per poter... Vabbè, non sembra la persona ideale. Poi? È 20 anni, è 20 anni che è lì, che prende lo stipendio. Lui e la Bindi che sono lì a fare i soliti scenari politici. Sì, però Alfredo, abbia pazienza, adesso questo qua non mi sembra un grande argomento, è sempre il solito, eccetera, la Bindi. Difatti parlava di rinnovamento e oggi abbiamo avuto la dimostrazione che si è riproposto per quello che sono. Va bene, poi? Numero due, per quanto riguarda la Lega, Maroni che dice che vuole tenere il 75% delle tasse, sì, in Lombardia. Ma io volevo fargli questa domanda, ma è per mantenere Bossi con le sue due macchine e le cinque persone che tutti i giorni le portano a bere il caffè e così via? Questo potrebbe rientrare nello spreco di denaro pubblico. Quante sono le macchine che portano Bossi due a prendere macchine, il caffè? Allora, una Audi, ci sarà una scorta, BMW, no? Ci sarà una scorta. Cinque persone di scorta. Sì, avrà una scorta, non la decide Bossi, la deciderà il Ministero dell'Interno. Spreco di denaro pubblico. Non lo so se sia spreco. Guardi, lei come fa a giudicare se Bossi ha bisogno di una scorta oppure no? Magari ha bisogno di una scorta, Bossi. Poverino, veramente. Vabbè, niente, volevo fare questa segnalazione. Vabbè, Gabriele da Roma, buonasera, grazie Alfredo. Gabriele da Roma. Legge elettorale. Sì. Taglio dei costi. Quale legge elettorale? Perché tutti dicono bisogna una nuova, ma che vuol dire? Anche là uno di... sia il porcello. Ma uno dice ci vuole una legge elettorale, ma quale? Ogni volta si dicono delle cose generiche. Ma che significa? Magari è peggio positiva. Di quello. Magari è dopodiché, peggio di. Dopodiché tagli una legge in merito alla corruzione, abbassamento dei costi della politica. Cose giù generiche. Lo spread. Sì. Giù lo spread immediatamente. Ma giù lo spread, che vuol dire giù lo spread? Non è che lo decide lei, giù, non è che si fa col decreto legge. Se noi facciamo 3 punti programmatici. Giù lo spread. Giù lo spread è un punto programmatico. Ma di che stiamo parlando? E Bersani, se deve fare questo, lo deve fare anche se con Berlusconi, lo deve fare. Assolutamente. Vabbè. Grazie. In secondo luogo volevo fare un applauso a Berlusconi. Applauso a Berlusconi, faccio l'applauso a Berlusconi. Perché come un giocatore che firma un pagherò al casino senza una lira, ha detto una marea di cose allucinanti, ma è stato bravissimo. Ridare i soldi all'IMU, a togliere potere alla Gerit che ha messo lui. Togliere potere? Alla Gerit. Allungare i pagamenti alla Gerit, che Berlusconi gliel'ha dati i poteri a questi qua. Esattamente, l'ha fatta lui. Allora? Cioè sarebbe l'IMU ridò i soldi, l'IMU l'ha fatto lui. No, non, questo non è vero. È vero solo in parte, è vero solo in parte. Ha commentato una situazione che ha creato lui rinnegandola totalmente, togliendo questa è stata questa è stata la genialità di Berlusconi in campagna elettorale. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Why don't you go? Guarda il capo dello Stato che eventualmente gli faccia questa proposta e gli dice si deve rivotare perché tanto non c'è nessuna maggioranza in questo Parlamento. Io non farò mai un governo con i voti di Berlusconi né con i voti di Grillo. Oppure penso di poter fare un governo con i voti o di Grillo o di Berlusconi. Ora, Grillo mi sembra francamente un pochino difficile, un pochino complicato, perché per quanto Berlusconi abbia dei tratti da Masaniello, da insidia vivente per le istituzioni, Grillo è uno che dice uscite con le mani alzate. Ho capito bene, è più chiara. Grillo è uno che dice spaziamo via i partiti, spaziamo via Napolitano, spaziamo via tutto. Allora Berlusconi si sta comportando benino, direi. Cioè, è stato anche il primo questa mattina leggermente ad aprire questo possibile governizio. Direttore, la interrompo un attimo perché abbiamo invece Zingaretti, vincitore di fatto regionali nel Lazio, insieme a Marco Piccaluga. Marco, a voi. Era Sky TG24 con Giuliano Ferrara che ci faceva un po' il quadro della situazione. La Zanzara 800240024. Parenzo, da casa sua a Roma o non so dove. No, alla sede di Fremantle. Vabbè, non c'è bisogno che citi cose che la gente non conosce. Andiamo a... La gente non conosce. La gente non conosce. Va bene, allora sono a casa mia. Citi Prodomo Tua. Una casa di produzione. No, ma tu devi sapere che a Latina, il Movimento 5 Stelle, ha eletto una senatrice e il figlio come deputato. Un caso clamoroso. Clamoroso. Lui si chiama Iannuzzi, Cristian Iannuzzi, un ragazzo che canta con la chitarra. No, ma senti come si presenta nello spot elettorale, eh? Senti. I had a few years and listener cries. Ciao, sono Cristian, anche se molti mi chiamano Rico. Amo la musica, infatti sono autore e musicista. Oltre questo sono da sempre appassionato di informatica e infatti nella vita faccio il tecnico. Tra le altre cose, nel tempo libero sono attivista con l'immersion del Movimento 5 Stelle. Il gruppo di Latina dal suo inizio. Io qualche volta quando sento questi qua eletti mi viene la pelle d'oca. Mi viene la pelle d'oca. Sì, no, ma appunto mi viene la pelle d'oca per questo, mica per altre cose. Mi viene no, la pelle ma d'oca. Sarà strepitoso quando questo signore con Casaleggio andrà con la chitarra da Napolitano. Ma va benissimo. Cioè basta essere consapevoli, andrà lì con la chitarra, dice lei che sono Giorgio del presidente Napolitano. Poi vedono arrivare dal camper, scende prima Grillo, poi Casaleggio, poi Cruciani, cioè tutte le altre burocrazie. Sì, e poi quello con la chitarra. E poi quello con la chitarra, certamente. Aspetta un attimo, aspetta. Pronto? Sì, casa Iannuzzi? Chi parla? Buonasera, cercavo la signora Simeoni. No, non è qua. Ah, mi scusi. Dove la troviamo? Dove la possiamo trovare? Un attimo. Sì, grazie. Grazie. Prego, pronto? Sì, buonasera, cerchiamo Ivana Simeoni. Per che cosa? Chi è? Sono Cruciani del Sole 24 Ore. La stavo cercando, siccome è stata eletta al Senato. Lei è un parente? Sì. Alla lontana, diciamo. O alla vicina, scusi se glielo chiedo. La mia ex moglie. Ah, mi scusi, mi perdoni. Mi perdoni veramente, non volevo disturbare. Vabbè, per carità. Cose che capitano, dai. Dov'è che la posso trovare, secondo lei? Se mi lascia un numero, eventualmente la faccio, se è interessato la faccio richiamare. Mi fa richiamare, ma ha un numero... Io le posso lasciare il mio numero, non c'è problema. Il numero suo, che in modo che eventualmente la richiama. Sì, 348... Sì. 7374... 7374 276 276 276 sì. Cruciani. Signor? Cruciani. Cruciani, sì. Okay. Ma chi l'avrebbe mai detto, no? Eletta al Senato, signor ex marito? Sì. Eh? Una grande emozione anche per lei, o no? No, come no? Una grande emozione anche per lei, o no? Ma che figura. Ah, per me sono contento per loro. Ah, beh, certo. Anche mio figlio è entrato, no? Si sono messi a posto pure. Ah, beh, anche suo figlio, certo, lei è il padre, non c'è dubbio. Sì, sì. Beh, è una cosa pazzesca, madre e figlio, no? No, un colpo pazzesco. Non è entusiasta. Non mi sembra entusiasta lei, però. No, voglio dire, io sono contento per loro, a me che cosa mi viene. Ah, lei non è... No, lei per carità, nulla, assolutamente. No, ma comunque... Loro si sono messi a posto, certo, un bello stipendio rispetto a quello, no? Non lo so perché stanno con Grillo, quindi non è che... Lì taglia tutto. Lei non li ha votati. Va bene. Lei l'ha votati? No. Penso di no. Che penso di no? Sì o no? Ma certo. Ah, suo figlio l'ha votato lei? Per forza, il figlio non... Va bene. Cruciani, la ringrazio. Grazie a lei, molto gentile. Mi scusi di averla disturbata. Prego. Mi scusi. E laica, la matriosca è laica e suona con maestria l'arpa. Ceausescu, ciao, io esco, dove vai? Vado. Giuro, non l'ho fatto apposta. David! No, è difficile, sì, no, io lo so perché ti conosco, ma è difficile da spiegare, però va bene. Non l'ho fatto apposta, era l'ex marito. Che no, ma non lo devi spiegare a me. Lo spiegherai. Chiedo scusa all'ex marito, la signora della neo senatrice, ma no, veramente non pensavo di beccare uno Iannuzzi che mi dicesse sì, è qui casa Iannuzzi. Cercavo di beccare lei direttamente, la signora Iannuzzi. Comunque era il padre, va bene, comunque. Sì, la signora Simeoni, sì. Mettiamo gerani su. E dice stanno con Grillo, altro che messi a posto, questi questi lo stipendio via, eh? Stanno in buca di tre questi, altro che. Voglio più mangiare pane. Monellacci, monellacci. Tanto a quel telefono. Allora, non chiamate quel telefono che abbiamo dato, che è il telefono dei miei assistenti. Vi prego, non date, non chiamate quel telefono, è inutile, altrimenti lo dobbiamo cambiare. Non chiamate quel telefono. Ma io infatti stavo dando il tuo. No, no, il mio non si dà, che sei matto. Ah, ecco, dov'è la democrazia dal basso, tutto trasparente? No, è tutto trasparente col telefonino, sai? 5 Stelle, tutto trasparente, sempre reperibile. Ma 5 Stelle di che? Ma smettila con questa stronzata! Devi essere reperibile sempre per ma... i tuoi cittadini, sempre, sempre! Adesso do io il tuo numero, altro che... Senti, il leader della SPD tedesca, Peer Steinbrück, no, ha detto... Bene. No, sì, Peer Steinbrück dice... Inorridisco per il fatto che abbiano vinto due clown. Senti, il probabile candidato cancelliere della SPD. Senti, senti questa cosa qui. Uno è Beppe Grillo, l'altro è definitivamente un clown con un alto livello di testosterone. Questo è il possibile nuovo cancelliere tedesco, il leader della SPD, Peer Steinbrück. Non è che abbia proprio tutti i torti, diciamo, lo si può dire qui alla Zanzara. Ma certo che è il capo della SPD. È il capo della SPD tedesca, è definitivamente un clown con un alto livello di testosterone. Comunque, ragazzi, questa è la Zanzara, non è che si fanno telefonate istituzionali. Cioè, abbiamo chiamato a casa del signor Iannuzzi. No, Iannuzzi era il padre del neodeputato. Si dà il caso che al Senato sia stata eletta anche la madre con 5 Stelle. Signora Ivana Simeoni, che abbraccio fortissimo, un'infermiera del 118 di Latina. Va benissimo, però... Giovanna da Milano, buonasera. Oddio. Pronto, ciao. Dica, dica, dica. Semplicemente io ho votato Grillo. Fiera di aver votato semplicemente una persona che... Non chiamate quel maledetto numero. Basta di chiamare quel numero. Basta, e ci state... Non provate a chiamare, ma niente. Ma ci stanno distruggendo la vita con questo numero. Su, basta, smettetela. Ma infatti chiamate il 348. No, smettila, Giovanna da Milano. Ah, Giovanna. Trasparenza da me. Ma quale trasparenza? Poi smettila allora... con questa stupidaggine che io ho votato Grillo. Sì, dai, ho dichiarato che ho votato Grillo alla Camera, al Senato e Maroni in Lombardia. Tutto trasparente. Parentesi, ho vinto le elezioni, Cioè, Camera, Senato, Grillo. Grillo e Lombardia, Maroni, ho vinto la elezione. No, ma per dire, ho vinto la elezione, ma questa è una piccola parentesi, che chiudo, aspetta, chiudo, ma non me ne frega niente, il problema fondamentale è che non abbiamo un timbro in testa, ognuno vota per mille motivi, i miei motivi per aver votato Grillo alla Camera e al Senato sono tattici, sono sostanzialmente tattici. Sentiamo da Limonte Cruciani. No, ma non mi interessa adesso spiegarli, Giovanna da Milano. Io come Cruciani ho votato Grillo. Oh, bene, no, bene, cioè bene, bene o male adesso. Al contrario. È il contrario di Parenzo, che non so su quale canale era sintonizzato. Mi sono resa conto. Parenzo, cosa hai votato? Dillo, adesso si può dire. Cosa hai votato? No, io non sono andato a votare. Sì, vabbè, cosa avresti votato? Non è riuscito ad andare a votare perché doveva votare in Toscana e invece doveva lavorare. Benissimo. Allora, dimmi che cosa avresti votato. Ma io avrei votato sicuramente Partito Democratico al Senato. Sì, al Senato. Questo sicuro. In Toscana, totalmente inutile, poi... Però non c'entra. E poi ero indeciso tra... No, fare non perché non è legittimo votare il Partito Democratico, perché in Toscana... E poi ero indeciso, avrei votato sicuramente PD a questo punto. PD, però PD, ero benissimo. Indeciso fino all'ultimo. PD, ma come era prevedibile? Come hai sempre votato in vita tua? No, poi? No, io ho votato anche Radicali, Rosa nel Pugno, moltissimo. Ero indeciso quest'anno se votare alla Camera... Il grande trionfo della Rosa nel Pugno. Giovanna, Giovanna. Certo, votai Rosa nel Pugno, certo. Certo. Tu inizia a dare il numero di cellulare, visto che sei un grillino. Trasparenza, perché devi essere reperibile sempre, sempre per i cittadini tuoi reperibile, devi essere 24 ore su 24 sempre reperibile. Giovanna da Milano. Allora, Giovanna, Parenzo, quale dei punti della campagna elettorale vuota e senza contenuti di Bersani l'ha convinto a votare il PD? Vabbè, adesso, Giovanna, perché voleva votare per la stabilità, che ne so, per le persone che sono più vicine magari a lui. Magari per far stare più tranquillo Vendola in giro per le strade di Roma, perché uno dei punti fondamentali era quello. Vabbè, adesso questa è una stupidaggine, Giovanna, adesso per stare, quella fu una stupidaggine detta da Vendola sulla tranquillità in giro per le strade di Roma. Sì, ma fondamentalmente, allora, il problema è che... Però non giochiamoci troppo sopra, su. No, non ci sono contenuti, non ci sono stati contenuti, e questa è stata la loro più grande colpa. Non c'è oggi, dubbio. Oggi ancora più... sembrava a lutto e non ha saputo dire un tubo. Un tubo, sì, è vero, è vero. Non ha detto niente. Niente, non niente. So che su che canale l'ha sintonizzato Parenzo. No, è che Parenzo guarda tutto col, col senso del politichese. Ma cioè, ha fatto un'offerta, sì, allora ha detto voi vi dovete prendere la responsabilità. Ma la gente non guarda più queste cose. Ecco, cioè, fai una proposta concreta, vai ecco là. Carino. Se fai una conferenza stampa, vai là e dici allora i miei punti programmati. Se no, non fare la conferenza stampa. Non la fare, non la fare. È inutile. Se non hai nulla da dire, niente, niente, tranne la moralità, l'europeismo, queste cose qui. Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. E per chiudere oggi, come al solito, lo sguardo sull'Italia, anche se si trova in Italia in questo momento, il professore Edward Luttwak. Buonasera, professore. Buonasera. Vero, professore Luttwak, che non Parenzo, ma lo sa, professor Luttwak, che Parenzo la imita? Oddio. No, guardi, senta, è senta. È una forma di... Io apprezzo tutte queste cose. Ecco, ma senta, senta un attimo la sua imitazione, sì. E poi gli dia un voto da 1 sì. a 10. Allora, professor Luttwak, Parenzo, come sono andate le elezioni italiane, secondo lei? Ma noi da America pensa che Italia ha un grave problema di governabilità, colpa di questo signore pagliaccio che noi dice clown in Stati Uniti, United States, e clown è per sindacati. Problema Italia è grande burocrazia, è professore, questo agnoletto, questi movimenti per pace, tutte queste cianfrusaglie che a voi Italia piace molto giocare con queste parole tipo pace, giustizia sociale, tutte cose che in America noi dice merito, mercato, freedom, voi lì con Camusso, che questo nome è che brutto, che camusso, che suona cacofonicamente, camusso. Professore, voto? No, questo è molto ammirevole, infatti lui è molto meglio di me, il falso Luttwak è migliore di quello autentico. Senta, professor Luttwak, ma c'è ancora, un grande pericolo, come lei ci ha detto l'altra volta, che c'è cioè, il terrore negli Stati Uniti di questa affermazione di Grillo, oppure no? No, non è questione di terrore, è questione... è un paradosso, okay? Sicuramente il signor Grillo è una persona, figura di spettacolo, eccetera. È sicuro quello che lui ha, quando lui fa l'errore di parlare di Iran, di queste cose medio orientali, ha detto che Al-Qaeda dovrebbe bombardare il Parlamento italiano perché sì. l'Italia coopera con la missione Mali, sì. questi tipi di estremisti islamici venuti da un politico populista italiano naturalmente destano, però c'è un fatto centrale che, cioè? Che sicuramente gli economisti americani, sì. se tu faresti un poll di economisti americani dell'Atlantico al Pacifico, sì. 99% sarebbero con Grillo, cioè? Non contro Grillo, su un punto molto semplice, l'euro. Ah, ho capito. Perché Grillo si devia dal consenso dei rispettabili. Sì. Berlusconi lo fa di tempo in tempo, ma non sempre. Non sempre. I rispettabili, le persone rispettabili sono che l'Italia deve rimanere nell'euro. Grillo invece è che l'Italia deve uscire dall'euro. Ed è un semplice fatto che se tu intervisti i professori di economia delle università sì. americane, da una costa all'altra, o intervisti, se vuoi, professori giapponesi di economia, o cinesi, che o di quello che vuoi, brasiliani fuori dall'Europa, sì. o anche la Repubblica Ceca, o il governatore della Banca di Israele, tutti direbbero che un paese come l'Italia sì. dovrebbe affrontare catastrofici problemi capitali che ci sarebbero sì. e grandi problemi bancari per uscire dall'euro. Così che ogni stanza d'albergo turistica in Italia è piena di turisti, ogni industria, la Fiat vende tutte le macchine che può produrre. Cioè lei sta dicendo che uscire dall'euro... cartellini sì. chiedendo assumiamo commesse, operai... Cioè lei sta dicendo che l'Italia per risolvere i suoi problemi economici dovrebbe uscire dall'euro, anche secondo lei, professor Luttwak? Secondo Grillo, che è un populista demagogico, eccetera, ma anche secondo il consenso degli economisti, sì. se tu guardi i rapporti anche del Fondo Monetario Internazionale, il famoso rapporto di 13 ottobre, che è l'11 ottobre, è che l'Italia sta il prezzo per l'Italia di rimanere nell'euro, sì, è zero crescita. Insomma, ma io voglio capire, lei è d'accordo oppure no su questa cosa? Io sono d'accordo, io credo che questo strumento chiamato euro è diventato una forma di fanatismo monetario. Sì. Fanatismo, perché da quando l'Italia è entrata nell'euro, è cresciuta l'economia italiana. Senta, un'ultima cosa, Lutwak. Questi sono, questo è il grande paradosso. Cioè, Pazzoli del politica, il responsabile è quello che vuole ridurre le tasse, che potrebbe rallentare la spirale discendente dell'economia italiana. Mentre Grillo, il populista pericoloso, è quello che ha la buona idea di uscire dall'euro. Questo dobbiamo confrontare il fatto. Senta, che la dottrina dei rispettabili è sbagliata. Benissimo, un'ultimissima cosa, proprio in 30 secondi poi saluto. Ma un governissimo, come viene visto in America, un accordo tra i grandi partiti italiani, tra Berlusconi e Bersani? Sarebbe visto come un aggiustamento pragmatico a una situazione concreta, un governismo. Un governo, non so, Bersani-Berlusconi, sarebbe il tipo di cosa che è una reazione naturale a un'elezione come questa. Però non risolverebbe nulla, dice lei. No, risolverebbe un fatto, e che darebbe un governo che potrebbe fare queste certe cose. Se il Bersani di oggi è il Bersani del famoso decreto Bersani. Ah, della liberalizzazione, certo. Che voleva liberalizzare le professioni. Bene, la devo lasciare, professore. Un abbraccio. A presto. Pubblicità e poi giornale radio. Ci sentiamo domani alle 18.30. Ma Berlusconi ha detto un'altra delle sue stronzate. Ma la stronzata di oggi è la più grossa di tutte. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Tutti a casa! A casa! Via! Via! Radio 24. La passione si sente.